in primo piano. In lettura dei giornali e giornali che si dedicano al giorno dopo la bocciatura, ancora il lodo Alfano, la situazione politica che ne è conseguita, le critiche di Berlusconi al Quirinale, la risposta del Quirinale, insomma questo trovate nelle aperture. Napolitano rispetta la Costituzione, così apre il Corriere della Sera, e Berlusconi, io l'unico eletto direttamente, Repubblica, Fini, Schifani, Napolitano corretto, La Stampa, eletto dal popolo, rispettatemi, una frase di Berlusconi. Vertice al Colle, lealtà tra istituzioni, questo è il titolo d'apertura del Messaggero, ma c'è anche l'ira di Napolitano, questa è l'apertura del Riformista. Altre aperture le vedremo qua e là, ma voglio dare innanzitutto una lettura dei giornali, perché ci sono anche tanti retroscena interessanti, per esempio quello di Marzio Breda, il quirinalista del Corriere della Sera, che svela quella che sarebbe una ricostruzione segreta. Scrive Breda nell'articolo che trovate in prima pagina dal titolo «Quella richiesta arrivata al Quirinale». Cosa intendeva Silvio Berlusconi l'altra sera quando nell'attacco a Napolitano ha detto «Mi sento preso in giro, non ho nulla da modificare delle mie dichiarazioni, che potrebbero essere anche più esplicite». Tra i tanti boatos e letture interpretative, la ricostruzione più attendibile finora segreta è questa. Mancano pochi giorni alla convocazione della Corte Costituzionale sul lodo, quando Angelino Alfano chiede udienza al Quirinale. Il ministro della Giustizia si fa portavoce di un messaggio delicatissimo che sta molto a cuore a Berlusconi. Chiede in sostanza un intervento del Presidente della Repubblica sui giudici della Consulta. Chiunque conosca un po' Napolitano sa che considera una proposta del genere quasi una forma di istigazione a compiere un delitto contro la Costituzione. Inevitabile dunque il suo secco diniego all'appoggio invocato. Peraltro c'è da dire che sempre il Corriere della Sera propone un'intervista allo stesso ministro della Giustizia Alfano. Alfano che dice ora acceleriamo sulle riforme, un'intervista interessante, riapre anche alla possibilità dell'immunità parlamentare. Dice Alfano l'immunità del 93, l'immunità del parlamentare non è nel programma di governo ma è materia che meriterebbe un serio approfondimento con l'opposizione dopo il congresso del PD. Ma su questa ricostruzione di Marzio Breda Alfano dice le mie visite al Quirinale sono tutte regolarmente monitorate e registrate dalle agenzie di stampa e se vi interessa l'ultima è stata in occasione della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 24 settembre. Ero lì insieme a un sacco di gente. Dunque Alfano smentisce quello che è il retroscena che comunque il Corriere della Sera mette in prima pagina. Tra l'altro, visto che le tensioni, le frizioni tra Capo dello Stato e Presidente della Repubblica sono evidenti, ci sono tantissimi commenti su questo, trovate sui giornali, ci sono anche varie interviste, due a due ex presidenti. La Repubblica intervista Oscar Luigi Scalfaro, che dice il Cavaliere mitizza il consenso, il voto non è il detersivo dei reati. Valuto positivamente l'operato della Corte Costituzionale, dice Scalfaro. Esiste un articolo 3 della Carta secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. La reazione del Presidente del Consiglio è stata istintiva, fatalmente confusa, ha fatto emergere i suoi sentimenti primordiali. La preoccupazione costante che nulla intacchi la pienezza dei poteri che competono al governo è una sorta di incurabile fastidio nei confronti di toghe e magistrati. Mentre il Corriere della Sera intervista Carlo Azeglio Ciampi a pagina 2 e 3. Le mie scelte per la Consulta, si parla di che cosa? Delle scelte dei giudici che sono stati nominati alla Consulta di nomina presidenziale, visto che Berlusconi ha detto molti sono nominati da presidenti o ex presidenti di sinistra. Dice Ciampi, guardi, sono tempi né facili né felici, non rendiamoli più gravi e pesanti. Cerchiamo tutti di usare parole di fiducia, compostezza e dignità, ma a chi dovesse insistere nella polemica sulle nomine fatte durante il mio settennato, l'unica risposta possibile è che ho scelto ispirandomi a criteri di competenza. Giovanni Maria Flick, Franco Gallo, Sabino Cassese, Maria Rita Saul, Giuseppe Tesauro, giuristi illustri di chiara fama, avranno avuto le loro idee, ma nessuno aveva mai fatto politica attiva. E poi ancora Ciampi riguardo alla bocciatura del lodo che era stato approvato da Napolitano, dice si sa che il capo dello Stato rinvia alle Camere una legge solo quando questa presenti vizi di incostituzionalità manifesta, palese e solare. E per esprimere una simile valutazione chiede un parere al proprio ufficio giuridico. Non è suo compito rigettarla nei casi dubbi, Per questi c'è il giudice delle leggi, per l'appunto l'alta corte, la Corte Costituzionale. C'è da dire che è pieno anche di retroscena e di articoli su quello che ora si appresta a fare il governo. Perché? Perché ovviamente ora ripartono i processi a Berlusconi e per esempio su Repubblica Liana Milella scrive: ora è in arrivo una leggina per tagliare la prescrizione nel caso Mills. Al tappeto dopo il micidiale knockout della Consulta Lodo Alfano, il team giuridico del Cavaliere sbanda, si divide, ma già al lavoro su nuove sorprese ad personam, così scrive Liana Milella. Tra queste sarebbe sul punto di prendere forma un disegno di legge leggero in cui mettere al primo posto i nuovi limiti della prescrizione, poi altre tre creature ghediniane: poteri potenziati delle difese a scapito dei giudici, ricusazione più facile delle toghe, stretta dell'utilizzo delle sentenze passate in giudicato, una nuova legge tagliata su misura per Berlusconi, smilza pochi articoli di facile gestione parlamentare con una corsia preferenziale garantita tra Camera e Senato. Questo secondo la Repubblica. Ricostruzioni simili le trovate anche sul Fatto. Peter Gomez dice che arriverà lo scudo ad personam, una serie di norme, anche una norma per esempio che salverebbe gli avvocati deputati per rinviare i processi. Trovate posizioni ben diverse e che parlano di appunto complotti, attacchi delle toghe a Berlusconi su Libero, per esempio. Contro Silvio, questa è l'apertura di Libero, pure la Svizzera. Primo giorno senza Lodo e che succede? Lugano indaga su Mediaset per riciclaggio. Riappare Mills e spara. Se sono colpevole lo è anche Berlusconi. E le procure di mezza Italia tramano, scrive Libero. E tra l'altro voglio ricordare proprio il nostro sondaggio di oggi. Vi chiediamo se secondo voi Berlusconi è perseguitato dalla magistratura. Potete votare sul sito e poi ne parleremo alle 8.30. C'è un interessante editoriale di Giampaolo Pansa proprio su Libero dal titolo Quella voglia di manette. E adesso come lo vogliamo il cavalier Berlusconi, scrive Pansa. Per esempio ammanettato è l'auspicio del Fatto. Ricordate ieri il titolo che vi ho citato. La trovata grafica della prima pagina è geniale. Le due O della parola Lodo sono diventate gli anelli di un paio di manette con tanto di catena. Lo stesso augurio è comparso sulla Stampa. Ieri il suo satirico tacitiano Iena, ovvero Riccardo Barenghi, ha concepito il seguente avviso. Il Premier ha immediatamente convocato il Consiglio dei Ministri per domani alle 9.30 a Milano, piazza Filangieri 2, San Vittore. Che poi è il carcere, per chi non lo sapesse. Ma le variabili sono tante, c'è chi lo vede già condannato e appeso per i piedi, oppure in barella con la testa rotta, vedasi il Corriere della Sera con la vignetta di Emilio Giannelli. Devo precisare, scrive Pansa, che del Cavaliere non mi frega nulla, non l'ho mai votato. Di recente gli ho consigliato anche di andarsene da Palazzo Chigi, un signor anziano, quasi quanto me, ha una salute malandata, forse dovrebbe godersi la vecchiaia invece di logorarsi tutti i giorni in trincea. Detto questo, mi rifiuto di considerare la pronuncia della Corte Costituzionale un verdetto imparziale. Nessun tribunale lo è, anche la giustizia con la maiuscola, con la G maiuscola, non lo è mai. Un saggio cinese disse tanti anni fa: la giustizia è come il timone, dove la giri va. Questo è l'editoriale di Pansa e c'è da dire che anche il giornale titola Dal lodo all'odio, ci pensa Santoro. Insomma, vabbè, dedicata alla vicenda della puntata ieri di Anno Zero, spruzzata di mafia sul Premier, questo scrive il giornale. Per chiudere questa prima parte dedicata ai tanti commenti all'odo c'è anche tutta la vicenda legata a Rosy Bindi. Sapete che Berlusconi, intervenendo porta a porta, ha detto a Rosy Bindi: lei è più, come le ha detto, lei è più bella che intelligente. E oggi l'Unità mette in prima pagina la foto di Berlusconi col titolo Più bello che innocente, e c'è un'intervista a Rosy Bindi. All'interno, le donne dicano basta. Ha raccolto la solidarietà di molti. Più bella che intelligente, come si è sentita? Beh, mi è toccata questa volgarità perché ho osato interromperlo, dice Rosy Bindi, contraddire le sue gravi affermazioni contro Napolitano e la Consulta. Per la prima volta è stato interrotto un suo monologo in TV. E poi ancora, Berlusconi ha mostrato il rapporto distorto che ha con le donne e col potere. Infine, l'accusa di Rosy Bindi è molto sottile a Bruno Vespa, perché dice Rosy Bindi: una cosa voglio chiederla io a Bruno Vespa. Come mai Berlusconi è intervenuto durante una trasmissione registrata? Lo ha avvisato qualcuno di quello che stavamo dicendo? Oppure Berlusconi controlla tutto in bassa frequenza? Addirittura sta dicendo che c'è un grande fratello, chiede Maria Zegarelli a Rosy Bindi. Sto dicendo che Berlusconi sapeva quello che stava accadendo in studio. E poi Rosy Bindi chiude: ora le scuse Berlusconi le deve presentare a tutte le donne, non a me. Allora, questo per quel che riguarda il dopo lodo, ma ne sono pieni i giornali, trovate davvero ancora pagine e pagine di commenti. Il traffico ora e poi le altre notizie che trovate oggi sulle prime.